Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. State attente al trucco del viso, mi rivolgo alle signore perché non saprei cosa dire ai signori. State attenti al trucco del viso nelle relazioni con le api. Benvenuti e benvenute a Mebius. E adesso ascoltiamo i titoli di questa puntata e poi ne parliamo subito. Ti guardano in faccia e ti riconoscono, però si tratta di api. Un nuovo studio svela il funzionamento del loro piccolo cervello. La Torre del Clima, costruita ai confini del Circolo Polare, è l'avamposto più settentrionale della ricerca italiana. Le incredibili sterne, grandi migratrici, tappe di 500 km senza posarsi mai. Un altro modo per imparare a leggere e scrivere, basato sui suoni e non sull'alfabeto. Piastrine microforate e altre tecniche utili per trasformarsi nell'uomo ragno. Ciao Chiara. Buonasera Federico, buonasera agli ascoltatori. Sei mai stata appunto da un'ape? Purtroppo sì. E perché non gli andava la sua faccia? Perché mi ha riconosciuto. La tua faccia, ti ha riconosciuto. Sì, questa sera parliamo di api. Le api riconoscono i volti. Questo è uno studio che era stato fatto già nel 2005, ma ci sono delle grosse novità. Ma andiamo con ordine. Questa sera è nostro ospite Stefano Ghirlanda, che qualche anno fa noi abbiamo incontrato al Festival della Scienza di Genova. Perché Stefano Ghirlanda è un ricercatore di psicologia presso l'Università di Bologna ed era stato insignito dell'Ig Nobel, che noi conosciamo bene. L'infame e famoso Ig Nobel. Esatto, sono la parodia dei veri premi Nobel, in cui si premiano delle ricerche che prima fanno sorridere, ma poi sono serie, fanno veramente riflettere. Però sono vere. Ecco, sentiamo per quale motivo Stefano Ghirlanda, che sentimmo all'epoca, aveva ricevuto il prestigioso premio. Abbiamo vinto questo premio perché abbiamo insegnato a delle galline a distinguere tra facce femminili e facce maschili. E poi abbiamo mostrato che imparare questa distinzione induce delle preferenze per i volti che sono simili alle preferenze degli esseri umani. Quindi cosa prediligono i polli? Quali sono i risultati? Ma in genere si predilige una lieve accentuazione dei tratti sessualmente dimorfici, per esempio per le donne labbra più piene oppure occhi più grandi. Quindi preferiscono i belli? Sì, esattamente. Ecco, i polli preferiscono i belli. E poi siamo sempre lì con volatili e facce. Ecco, e adesso vediamo cosa preferiscono le api. E allora, questa sera Stefano Ghirlanda è tornato nostro ospite. Buonasera Stefano. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Buonasera, ho detto volatili api e volatili e facce, no, insomma, volano anche volano le api, però non sono insetti, uccelli. Ci sono di mezzo delle ali. Ecco, abbiamo detto che già nel 2005 sapevamo che le api in qualche modo sapessero riconoscere i volti umani e adesso in realtà ci sono delle novità. Esattamente, la novità è che questi insetti non riconoscono solo elementi specifici, diciamo per esempio il fatto che ci sia una bocca o degli occhi nei volti, ma sono sensibili anche alla configurazione di questi elementi, per cui sanno, dopo aver imparato, che la bocca deve stare al di sotto degli occhi, per esempio, e non viceversa, e riescono a capire la corretta configurazione degli elementi e diciamo, a classificare gli stimoli in simil faccia e invece diverso dalla faccia in base a queste configurazioni. Perché in realtà i ricercatori hanno fatto proprio degli esperimenti pratici, hanno mostrato. Stefano, vuoi raccontarci tu com'era il teatro dell'esperimento? Eh sì, com'è che fanno? Come fate a sapere che riconoscono le facce? Sembra impossibile. In realtà non è molto difficile, perché si usa il fatto che le api e, diciamo, nel nostro esperimento di qualche anno fa, le galline sono entrambi animali che usano la vista per riconoscere potenziali fonti di cibo. Quindi invece di imparare che un certo fiore contiene del nettare, le api in laboratorio imparano che avvicinarsi a una certa figurina di faccia dà loro accesso a una soluzione zuccherina che, diciamo, è fonte di nutrimento per loro. Quindi imparano che una certa configurazione di stimoli visivi segnala la presenza di cibo e quindi cominciano ad avvicinarsi a questa configurazione. Per capire poi che cosa hanno realmente imparato, si fanno dei test in cui si presentano delle configurazioni nuove. Per esempio si mettono una vicino all'altra, la faccia o la configurazione, lo stimolo precedentemente addestrato e uno stimolo nuovo, per esempio una faccia rimescolata in cui, come suggerivo prima, gli occhi sono al di sopra sono al di sotto della bocca invece che al di sopra, e si vede l'ape dove va. Se l'ape in maniera, diciamo, consistente va dallo stimolo faccia ed evita lo stimolo non faccia, si può concludere che è sensibile a queste informazioni visive. Quindi non è che proprio riconoscono la fisionomia, ma riconoscono esattamente lo schema facciale, cioè non distinguono Marco da Andrea, da Giulia, però riconoscono lo schema di una faccia, giusto? Questo è quello su cui si sono diciamo concentrati i ricercatori di questo studio. Però non è detto che, perché loro hanno insegnato a distinguere categorie di facce, cioè schemi facciali, non è detto che con un po' più di addestramento possano imparare anche a distinguere due volti specifici. Sì. Loro a questo non gli era stato richiesto nell'esperimento, per cui non l'hanno fatto semplicemente perché non era parte del loro addestramento. Magari per loro è molto difficile comportarsi rispetto a una faccia molto sorridente e invece tutto funziona con una faccia molto triste. Insomma, potrebbe esserci anche questo tipo di diversità. Io adesso non sono un esperto di visione negli insetti, per cui non posso dare una risposta certa a questa domanda. Se però voi me l'avessi chiesto per i polli, io sono sicuro al 100% che i polli sarebbero in grado di distinguere facce sorridenti e facce tristi, se gli venisse insegnato, ovviamente, perché per loro la faccia in origine non ha nessun significato. Se però loro imparano che per esempio la faccia triste è ricompensata con dei vermetti o dei chicchi di grano, allora sono in grado di fare delle discriminazioni visive molto raffinate. Anzi, le galline hanno una visione molto più raffinata della nostra, della visione umana. Ma questo atteggiamento può dipendere dalla dimensione del cervello? No? Questa è una domanda molto interessante, perché in realtà ci sono anche animali che hanno un cervello molto più piccolo di quello non solo dell'essere umano ma anche delle galline. Ad esempio le api, no? hanno meno di 1 milione di neuroni nel loro cervello, che noi ne abbiamo circa 100 miliardi, ecco, quindi sono differenze di ordine di grandezza molto, molto rilevanti. Però si vede, facendo esperimenti di appunto percezione visiva, che le api hanno un sistema visivo molto, molto efficace. Dopotutto è così che loro riconoscono i fiori, per cui nella loro vita naturale gli serve una vista efficiente. E Stefano, tu con la tua equip di ricercatori, di psicologi dell'Università di Bologna, avete studiato i polli, adesso si stanno studiando le api, cos'altro state valutando? Ecco, adesso purtroppo io non ho più a disposizione un laboratorio animale, infatti i miei studi li feci a Stoccolma sulle galline. Adesso sto più che altro cercando di valutare quali elementi dei volti sono importanti per la nostra percezione della bellezza e soprattutto se ci siano fenomeni di cosiddetto imprinting sessuale, cioè evidenze del fatto che le esperienze precoci che ognuno di noi fa con certe persone, con certi volti, spesso i genitori, diciamo, possono poi ripercuotersi sulle nostre preferenze. Ah, quindi studiate i cuccioli d'uomo? Niente, i cuccioli d'uomo, e vedere se chi li alleva ha un'influenza duratura sul poi il loro sviluppo riguardo ai criteri di attrattività. Stefano, prima di chiudere, ci spieghi a che cosa serve studiare questo meccanismo che fa scattare il riconoscimento di un volto? Diciamo, serve per un po' per capire come siamo fatti, perché se noi non ci chiedessimo che cosa sanno fare gli animali, non saremmo neanche in grado di capire che cos'è la specificità del nostro essere umani. Per esempio, anche i ricercatori concludono il loro articolo dicendo che l'aver dimostrato che le api riescano a riconoscere stimoli simil faccia da stimoli diversi dimostra che non è necessario una particolare regione del cervello specializzata per il riconoscimento delle facce, perché ovviamente le api non hanno questa regione, quindi è possibile che anche gli esseri umani, pur essendo molto bravi a riconoscere le facce e fare discriminazioni molto sottili, non abbiano in realtà un concetto, diciamo, innato di come una faccia debba essere fatta, ma lo imparano durante la vita, e quindi le facce che uno vede da piccolo soprattutto sono molto formative per le opinioni di che cos'è una faccia, di come è fatta una faccia che ognuno di noi ha. Non è una componente, diciamo, innata della nostra psicologia, o almeno è innata, diciamo, in maniera molto schematica. Ecco, la nostra idea di una faccia non contiene elementi molto dettagliati, ma contiene al massimo un rozzo schema di com'è una faccia. E quindi gli esperimenti su animali sono importanti per capire noi stessi, in fondo. Molto bene, grazie Stefano per averci fatto capire un po' meglio l'importanza di questa ricerca. E vabbè, noi ci speriamo in un altro Ig Nobel italiano, eh? Beh, ma l'Italia devo dire che è abbastanza prolifica, ha molti più Ig Nobel che Nobel negli ultimi anni. Ah, questo sì, è vero. Non so se è purtroppo per fortuna, perché come diciamo recipiente dell'Ig Nobel non posso certo svalutarlo, per cui dobbiamo essere contenti. Certo. Noi lo siamo. Grazie Stefano, buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il gioco adesso, pronti con i cellulari. Breve e utilissimo per tutti il quiz di oggi. Quando siete in orbita intorno alla Terra nella vostra stazione spaziale, quale alimento dovete evitare? Prima possibilità, il pane, scriverete pane ovviamente, il ketchup, scriverete salsa. La terza possibilità è l'insalata, scriverete insalata, dove il sistema è sempre lo stesso, l'SMS al 349-238-6666. E il libro che si vince questa settimana è Un mondo di coincidenze, scritto da Ennio Peres, edizione Ponte delle Grazie. In collaborazione con IBS.it. Quando i ricercatori italiani vanno verso il freddo, cosa fanno? Una torre, per esempio, fanno anche altro, c'è una stazione di ricerca al Polo Sud, anche se non mi ricordo, mi pare che non abbiano ricevuto i fondi e quindi probabilmente ce li siamo dimenticati laggiù. Verso il Polo Nord, invece, c'è questa torre del clima, ve ne parla Chiara Albicocco. Una torre del clima, alta 34 metri e posizionata di fronte al Polo Nord, in Norvegia. È l'avamposto più settentrionale della ricerca italiana sul clima ed è dedicata a due grandi esploratori polari del secolo scorso, il norvegese Roald Amundsen e l'italiano Umberto Nobile. È nostro ospite questa sera il direttore del Dipartimento Terra e Ambiente del CNR, che coordina le ricerche in questa importante stazione climatica. Buonasera direttore Giuseppe Cavarretta. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, ci deve spiegare che cos'è questa torre del clima e dove si trova esattamente? La torre si trova a Ny-Ålesund, che è un villaggio scientifico, praticamente popolato solo da ricercatori, che si trova nella isola di Spitsbergen, una delle isole che compongono l'arcipelago delle Svalbard. È famoso questo posto perché appunto è stato nel 1928 il luogo di partenza delle spedizioni di esplorazione geografica e scientifica dell'area polare nord da parte delle figure prestigiose che lei ha già citato. Per noi è importantissimo perché già da diversi anni abbiamo una stazione scientifica. Preciso che il villaggio scientifico è multinazionale, vi hanno stazioni scientifiche permanenti, ben 15 paesi, tra cui appunto l'Italia. Operano ricercatori veramente in un esempio di integrazione e fratellanza tra paesi e ricercatori, in quanto condividono tutto. I dati vengono condivisi. Vengono condivise le strutture. Ecco, perché direttore in quella posizione, cioè alle soglie del Polo Nord? Perché è uno degli ultimi posti dove c'è della terraferma ed è un territorio, tra l'altro, che è a sovranità norvegese, ma diciamo così oggetto di un trattato internazionale per cui vi hanno libero accesso tutte le nazioni. Non solo, ma in quanto viene lambito dalla corrente del Golfo, vi è un clima tutto sommato non eccessivamente rigido, per cui è più facile, diciamo così, sopravvivere su lunghi periodi, infatti è abitato dai ricercatori, intendo, tutto l'anno. Torniamo alla Torre del Clima, che sì, è divenuta operativa pochissimi giorni fa, giusto? Sì, diciamo così, abbiamo terminato l'installazione degli strumenti a settembre, e da allora già ha cominciato, diciamo, in via sperimentale a trasmettere dati. La torre è circa 1,5 chilometri dalla nostra stazione, in un luogo scelto per le specifiche misure che deve realizzare. È collegata quindi alla nostra stazione con un cavo a fibre ottiche e da lì e trasmette i dati via internet, quindi è accessibile a larga banda, quindi tutti gli strumenti sono controllati e trasmettono dati via internet, quindi tutti i dati pervengono al nostro Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima a Bologna. Ah, perfetto. Ma senta, che tipo di parametri registrano questi strumenti? La torre attualmente è equipaggiata già con strumenti di tipo meteorologico, cioè misurano temperatura, velocità del vento e praticamente quello che chiamiamo il transfer radioattivo. Perché questa torre, vorrei spiegare, è rilevante per comprendere i processi che si verificano in atmosfera, finalizzati intendo alla comprensione dei cambiamenti climatici e quindi alla comprensione dei processi che riguardano, come già detto, gli scambi di energia tra l'atmosfera e la superficie. Sì. Superficie intesa ovviamente sia come suolo terreno che superficie del mare. Ebbene, tra il suolo e l'atmosfera si realizza quindi un gradiente di temperatura, cioè la temperatura via via cambia, e quindi per capire meglio questi processi noi andiamo a misurare a diverse altezze tutti questi parametri. Tanto che ci sono delle stazioni, diciamo così, a livello proprio vicino a terra, delle stazioni vicine di misura, su varie e poi altezze, su più livelli della torre. E per comprendere ancora meglio questi processi, misurando i parametri meteorologici, integriamo i dati con delle altre misure che vengono fatte da un'altra stazione permanente già installata dai norvegesi, con cui abbiamo già stipulato un accordo intergovernativo di collaborazione scientifica per l'Artico, che è collocata sul Monte Zeppelin, cioè una montagnola che è lì accanto, a 500 metri. Quindi abbiamo questa produzione di dati in continuo, naturalmente, su diverse altezze, dati che ci consentono di dire qualcosa di più sui cambiamenti climatici e quindi fornire ai decisori politici quella base di conoscenza essenziale perché vengano assunte decisioni così importanti per l'intera umanità. Ecco, è vero che soprattutto in queste zone molto a nord, al polo nord, ma così anche al polo sud, c'è una concentrazione di inquinanti, di polveri sottili molto superiore a quelle che si potrebbe pensare. Non sono in relazione ovviamente al fatto che non ci siano metropoli. Ahimè sì. Noto che già dalla fine dell'Ottocento, con lo sviluppo dell'era industriale, era stata notata in Artico la cosiddetta Arctic Haze, cioè la nebbia artica. È sorprendente perché ciascuno di noi si aspetterebbe che in un posto così lontano da tutto ci si debba trovare in un ambiente del tutto incontaminato. In realtà la circolazione atmosferica è tale per cui l'emisfero nord, che ovviamente è quello più abitato del paese e del mondo, volevo dire, scusi, è quello che dove si concentrano le attività industriali, produce una grande quantità, come è noto, di inquinanti, di particolato e aerosol. La circolazione atmosferica, ahimè, fa sì che tutto questo venga, si può dire, convogliato verso il nord e lì alla fine precipita, si deposita, depositando quindi il cosiddetto black carbon, cioè carbone nero, che è quello emesso massicciamente dalle centrali termiche a carbone, ma anche metalli pesanti come il mercurio. C'è quindi un allarme abbastanza sensibile. Altri componenti sono composti azotati e composti organici permanenti, ovviamente inquinanti. Quindi c'è un allarme abbastanza sensibile lanciato a livello internazionale e le popolazioni che lì abitano, cioè i Sami e gli Inuit, continuamente protestano, richiamano l'attenzione internazionale nell'ambito del Consiglio Artico che riunisce i paesi rivieraschi dell'Artico e a cui partecipano molti paesi osservatori, tra cui l'Italia. Perché purtroppo pagano le conseguenze di pagano quello che succede da noi. Si può dire che questa torre del clima è un po' l'occhio europeo sul clima, che è un po' gemello dell'altra prestigiosa base italiana climatica che abbiamo sul K2. È importante avere queste basi un po' sparse in questi punti strategici. Assolutamente sì. Noi del CNR abbiamo appunto stimolato queste osservazioni in ambienti estremi che includono il Polo Nord, naturalmente, l'Everest che lei ha citato, la famosa piramide voluta e creata dal professor Ardito Desio, sì. E quindi una torre gemella a questa dell'Artico che esiste già presso la nostra base italo-francese Concordia, che è al Polo Sud. A Dom sì, per l'esattezza. È vero, è vero. Va bene, grazie professore, io la lascio al suo lavoro e ovviamente quando ci saranno dei dati, l'elaborazione anzi, dei dati della Torre del Clima, noi siamo qui per farli capire anche agli ascoltatori. È un vero piacere, posso dire che dal 1 marzo inizierà la campagna 2010, noi avremo 800 giorni uomo di ricercatori nel a New Orleans, nell'Artico, e quindi certamente sapremo fornire risultati interessanti per tutti, non solo i ricercatori. Va bene, grazie davvero, buon grazie lavoro. Grazie a voi. Chissà, forse questa è la volta buona, perché l'idea non è nuova. Sto per parlarvi di trasmissione di energia elettrica senza fili, niente più cavi, insomma, una vera rivoluzione. Però possiamo tornare indietro di più di un secolo, quando il geniale, è un po' pazzo, devo dire, Nikola Tesla propose, fra le tante sue idee di applicazioni elettriche, la costruzione di una grande torre che avrebbe lanciato verso la troposfera un sacco di elettricità che poi sarebbe rimbalzata a terra e avrebbe alimentato le case, ve la dico così un po' semplicemente. Prima ancora di capire se il meccanismo avrebbe bruciato peli e capelli di tutti nell'arco di svariati chilometri intorno alla torre, il progetto non fece alcun passo perché non si riusciva a capire come emettere bollette per il pagamento. Nel 1960 si rifece viva l'idea e ci fu pure una dimostrazione pubblica con un piccolo elicottero elettrico che riceveva energia da terra, ma nulla ne seguì. Trasmissioni a lunga distanza però sono ancora un orizzonte che pare lontano. Su distanze più brevi invece, con potenze ridotte, si incominciano ad avere buoni risultati. Mandare dei millivolt a 15 metri è cosa che si può fare bene e con queste potenze si possono caricare piccoli apparecchi, delle sveglie per esempio, ma anche dei cellulari. Con un raggio laser diretto su una cella fotovoltaica i risultati possono essere decisamente superiori, si potrebbe caricare dei computer. Ma quella che viene considerata la soluzione più interessante è l'induzione magnetica. Un campo magnetico oscillante produce una corrente elettrica in un circuito, anche con potenze di un buon livello. Qui però il problema è che gli esperimenti di successo, ad oggi compiuti, ce ne sono stati alcuni interessanti, ci parlano di distanze millimetriche fra la sorgente del campo magnetico e il circuito elettrico, e quindi è una condizione che rende inutile il tutto. Tuttavia ci sono delle idee che possono portare a una soluzione. La principale di queste idee si basa su un principio importante, noto, e cioè vuole usare il principio della risonanza, che è un amplificatore delle potenze. Un esempio: se un acuto operistico entra in risonanza con la frequenza tipica del vetro di un certo bicchiere, ecco che quest'ultimo si rompe, proprio perché la risonanza amplifica enormemente l'energia generata. Obiettivo di tutto ciò? Arrivare presto a case senza fili nelle quali effettivamente le distanze da coprire possono essere al massimo di poche decine di metri. Vedremo cosa succederà. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Per il prossimo argomento credo che andremo in volo. Ciao Barbara. Ciao Federico. Sì, siamo in volo e ho in linea una frequent flyer da record. Se viaggiasse pagando i biglietti aerei, le compagnie decisamente farebbero a gara per accaparrarsi. Ah, però. Hai capito? Sì, non sono del tutto sicuro, ti dirò. Beh, allora traduco. Si tratta di una femmina di sterna coda lunga e si sta preparando a fare il solito viaggio, lo fa tutti gli anni, dal polo sud al polo nord. Proviamo a chiederle per quando è fissata la partenza. A maggio più o meno. Beh, maggio è un bel mese in cui partire, buono. Beh sì, però il viaggio è piuttosto duro. Si calcola che alla fine avrà fatto circa 35.000 chilometri in 2-3 mesi. E con alcune tappe anche di 550 chilometri al giorno. Non ci credo, mamma. E beh, deve andare dal polo sud al polo nord. E in più non lo può neanche fare in linea retta, perché prima raggiunge l'Africa meridionale, poi passa per i Caraibi, poi va finalmente verso l'Artico. È una bella faticata che poi, per giunta, qualche mese dopo deve rifare in senso inverso. Eh già, certo, per tornare indietro. Siamo tipi tradizionalisti. Da generazioni ci fermiamo sempre negli stessi luoghi. Certo, certo, le tradizioni sono importanti. Beh, forse un altro ospite che abbiamo qui, Alessandro Montemaggiori, che è un ornitologo che da 30 anni studia le migrazioni, ci può spiegare perché sono così tradizionaliste queste sterne. Come perché? È ovvio, perché là conosciamo i ristoranti giusti, gli alberghi. Ed è vero, cioè le rotte tengono proprio conto di queste aree di sosta, cioè che sono vitali per compiere viaggi soprattutto così lunghi. È ovvio che per 3 mesi un volo di queste portate ha bisogno di ristoranti ben precisi e che siano soprattutto certi. Non si può rischiare di non trovare posto o di non mangiare, perché sennò finisce il viaggio. Quello a cui è arrivata la sterna come rotta di migrazione è il meglio possibile per quel momento. Se ci fossero strappi o deviazioni, questo altererebbe tutto il delicato equilibrio di sia fisiologia che condizioni climatiche, meteorologiche, di ricerca del cibo, eccetera, che porterebbero a un rischio troppo grande durante il viaggio della migrazione. A volte arriviamo a fare tappa esauste. Vorremmo mangiare, ma non si trova niente. Esattamente. È il discorso dell'inquinamento luminoso. Diciamo, le sterne si orientano utilizzando anche le stelle nel cielo come punti di riferimento. Ovviamente le luci artificiali sono un fattore di confusione e questo comporta cambiamenti di rotta oppure soste in aree che non sono adatte per sostare, perché non si trova cibo e perché si perde tempo soprattutto. In effetti alcuni ricercatori hanno calcolato quanti chilometri percorre una sterna nel corso della vita ed è risultato che il percorso è circa 3 volte il tragitto dalla Terra alla Luna. In realtà queste si tratta di stime. Diciamo, i dati certi possono essere raccolti in linea retta quando si inanellano gli animali, cioè si pone sulla zampetta di una sterna al nido un anellino metallico con un numero e un indirizzo e poi si va a vedere dove questo anellino viene ritrovato. Ci sono casi appunto di viaggi di sterna anche di 22.000 chilometri, animali che sono nati nel nord dell'Inghilterra e che sono stati poi recuperati 3 mesi dopo, per esempio sulle coste australiane a Melbourne. Però i dati, diciamo, più recenti di spostamento hanno addirittura ampliato questi viaggi, portandoli fino a 70.900 chilometri all'anno, perché attraverso l'uso di data logger, cioè dei piccolissimi dispositivi che vengono posti delicatamente sulla schiena di questi animali, è possibile, attraverso, diciamo, una complessa analisi di dati ambientali, risalire esattamente al viaggio di questi animali e capire che questi animali, per esempio, fanno dei viaggi ad esse o dei loop per spostarsi da nord a sud, non seguendo una linea retta, ma cercando le aree migliori di sosta dove potersi rifocillare e recuperare le energie per il viaggio. Ma insomma, signora Sterna, ci confessi, 550 km a tappa sono veramente una bella faticata, ma lei le fa proprio coi suoi muscoli oppure si fa trasportare dal vento, dalle correnti aeree come fanno molti uccelli? Cosa? Ci avete preso per quei fannulloni degli albatros? Sì, in realtà il discorso è vero per gli albatros, cioè gli albatros riescono a fare anche 800 km in un giorno semplicemente per cercare il cibo da portare ai pulcini, ma semplicemente perché non fanno un volo muscolare. Loro tengono le ali aperte e si fanno trasportare dalle correnti superficiali che si sviluppano, diciamo, a pochi centimetri dalle onde del mare. Per la sterna non è così, perché la sterna compie un volo battuto vero e proprio. È vero che si fa aiutare dai venti prevalenti e soprattutto dai venti stagionali durante il viaggio, così come fanno tutti gli uccelli, come fanno tra l'altro anche gli aeroplani. Però è anche vero che la maggior parte del volo è compiuto attraverso i muscoli, cioè il battito delle ali, e quindi un lavoro muscolare molto complesso, che è possibile soltanto perché si riesce a trovare cibo sufficiente e a recuperare, quindi a mettere su benzina, che è poi il grasso che questi animali utilizzano durante i viaggi di migrazione. Ecco, appunto! No, ma non se la prenda, ha visto che avevamo un esperto che ha descritto bene tutte le sue cose. Signora Sterna, grazie. Grazie alla nostra ospite e grazie naturalmente all'ornitologo Alessandro Montemaggiori. Ma noi da piccoli, quando ci insegnano a leggere e scrivere, facciamo la cosa giusta? Non v'è dubbio che è giusta, perché leggere e scrivere serve. Il punto è un altro: ce lo insegnano nel modo migliore? Teniamo presente che da molti anni il sistema è, bene o male, sempre lo stesso. Ce n'è un altro di sistema, progettato da un abile maestro di Verona, Giovanni Meneghello, che è un signore oggi di una certa età, un signore che alla sua cultura di maestro ha aggiunto molte altre conoscenze complesse che riguardano il funzionamento della mente e soprattutto quella dei bambini. Nel corso di Infinitamente, una rassegna di seminari e brevi convegni che si è svolta a Verona 2 settimane fa e che era dedicata alla ricerca sulla mente, Meneghello ha presentato insieme ad altri ricercatori questo suo sistema. Giovanni Meneghello ha studiato questo metodo diverso per insegnare a leggere e scrivere, basato sull'apprendimento e non sull'imparamento. Guardate che questo termine che sentirete nell'intervista, imparamento, è stato usato da ricercatori che a Verona hanno commentato il metodo del maestro. È un neologismo, ma lo si vuole usare per definire un'acquisizione di contenuti un po' forzata, mentre l'apprendimento si fonda su un processo naturale. Veniamo dunque all'esperimento. Vediamo dunque a questo gioco, perché vedrete, è un gioco. Un bambino deve apprendere come si scrive cicogna, ma quando lo deve fare, lui o lei, cicogna è già una parola che conoscono, che usano, perché sanno parlare. Sentiamo adesso Giovanni Meneghello e pensate di avere fra le mani un cartoncino che vi presenta su un lato la figura della cicogna e dietro la parola scritta cicogna. Io considero i suoni così come sono naturalmente, cicogna. Il bambino sente con facilità, lo fa con facilità, si gioca sopra. Adesso il bambino, attraverso esperienze fatte, ha già fatto esperienza che la parola parlata può anche diventare parola scritta. Naturalmente la parola è scritta da segni grafici, e naturalmente bisogna che i segni rappresentino i suoni della parola parlata. Ecco. Allora, in sostanza, noi facciamo questo gioco. Il bambino, attraverso i giochi precedenti, conosce che questa figurina è cicogna. E qui abbiamo la figura della cicogna. Figura della cicogna sulla quale quel bambino si è giocato, in primo modo, poi che la conosca e anzi abbia sviluppato anche un alto grado di affettività, che per i bambini quanto più alto il livello affettivo, tanto più è forte l'interesse. Poi, dietro, viceversa, c'è la parola scritta cicogna, che il bambino ancora non conosce. Vede che in questa scrittura ci sono queste linee che dividono i suoni. Ecco, io lo chiamo le barre intersillabico. Questo fa capire al bambino che qui ci sono praticamente tre pezzi scritti. Lui non conosce ancora le letterine. Adesso dice, io devo andare a trovare la scrittura di ognuno dei tre segni. Il primo segno è C, perché lo sente dal suono. Ma dov'è la scrittura C? Vedi che è nascosta? Perché la faccio nascosta? Perché il bambino, per andare a trovare dove si trova la scrittura C, deve fare il passaggio fonico, sapere che va a trovare il segno del suono C. Allora dice C, questo perché l'ha imparato nei giochi che si fanno in precedenza, che sono giochi bellissimi, appartiene alla famiglia fonosillabica di C, C'è, C'ho, C'ha. Quindi un insieme di suoni. Una famiglia di suoni. Che non possono essere, per esempio, ti, te, to, tatu, quella è un'altra famiglia. E quindi ha un'associazione visiva immediata tra una scrittura, un segno e un suono. Ecco, difatti io affermo questo, è dalla sicura conoscenza del suono che il bambino va a conoscere il segno. Il suono è vettore del segno. Rovesciato proprio. Esattamente, il rovesciamento di quello che si Totalmente. Fa. E non c'è bisogno di nessun elemento mediatore, come di ape, devono pensare all'ape, eccetera. Qui, e quindi c'è un'interferenza dal punto di vista neurologico, lo capisce bene, perché è un lavoro che si fa fare al cervello in più. Allora, c'è la figura della cicogna, c'è anche cicogna scritto, ma la bambina non sa leggere, però sa bene che il primo pezzo è C e questa bambina ha anche davanti, ecco un particolare che non vi ho ancora detto, dei cubotti di plastica, anzi sono dei prismi esagonali, che sulle sei facce hanno la famiglia che avete appena sentito citare dal maestro, C, C, Cio, Cia, Ciu. E sulla faccia superiore del prisma che cosa c'è? C'è una ciliegia che il bambino sa perfettamente cos'è e che sa essere una parola che inizia con il suono C. È abbastanza chiaro, insomma, a reggere la danza dell'apprendimento è il suono, che è un'attività spontanea. Ho chiesto allora a Giovanni Meneghello, insegnare ai piccoli la scrittura e la lettura tenendo fuori i suoni è una cosa innaturale e questo può anche significare che apprendiamo più tardi? Sì, esattamente. Perché mentre l'apprendimento del linguaggio parlato viene compiuto da tutti i bambini di tutte le razze, di tutte le culture, viene compiuto subito dalla nascita e in modo spontaneo, autonomo, e porta, proprio perché compiuto già dalla nascita e compiuto autonomamente, cioè come scoperta, come apprendimento, non come imparamento, porta allo sviluppo, all'educazione di molte potenzialità di cui il bambino, ogni bambino è dotato. Il linguaggio alfabetico, l'apprendimento del linguaggio alfabetico invece è rinviato alla tarda età di 6 anni ed è rinviato alla tarda età di 6 anni perché viene insegnato in un modo che non è corrispondente alle esigenze, alle caratteristiche innate della relativa capacità corticale, perché anche il linguaggio alfabetico, come lo è il linguaggio parlato, sono frutto, sono competenze prodotte dall'organizzazione della capacità, delle relative capacità corticali. Per chi fosse interessato c'è il gioco, ovvero una scatola progettata con tutti i pezzi che servono per praticare questa nuova strategia per l'insegnamento di scrittura e lettura. Di fatto è uno strumento didattico utile per gli insegnanti. L'ho chiamato gioco e anche gli ideatori lo chiamano così, perché la componente giocosa è un aspetto fondamentale di questa pratica. Se volete delle informazioni scriveteci oppure mandate al nostro sito e troverete i recapiti. C'è un istituto, l'Istituto Prout, che sta lavorando a questo progetto e che ha ideato il confezionamento del gioco didattico. Molto brevemente vi segnalo ora che la nostra trasmissione è anche ascoltabile in podcast. Andate al sito di Radio 24, che adesso è anche rinnovato e più efficiente, più immediato di prima, e la troverete facilmente. Se poi invece volete delle singole parti della trasmissione, dei singoli servizi, allora è più facile che li troviate al sito di Moebius, www.moebiusonline.eu. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Fra poco Chiara Albicocco vi parlerà di cucina in orbita. Ascoltatela perché vi darà anche la soluzione del quiz. Ogni tanto qui a Moebius vi parliamo di cucina scientifica. Anche oggi, in un certo senso, lo facciamo perché vi parlo di ricette per alimenti orbitali, diciamo così. Più chiaramente, come si alimentano gli astronauti in orbita. È appena uscito un bel libro in inglese che riassume il problema. Si intitola The Astronaut Cookbook, in pratica il libro di ricette per gli astronauti. Le attenzioni da porre nella gastronomia spaziale non sono certamente poche, anche se oggi si sono fatti molti progressi, il menù è molto migliorato, addirittura nella missione del 2008 c'è stato un menù tutto italiano, di cucina pugliese. Una volta invece, lo ricordano i primi viaggiatori dello spazio, era davvero un disastro. Quali sono le attenzioni da porre? Beh, per esempio, il pane non va bene. E questo è sicuramente un problema per gli astronauti italiani. Non va bene perché fa le briciole. Voi direte, e certo, le briciole finiscono dentro le apparecchiature. Ma non è questo il punto. Pensate all'elettronica sofisticata di certi armamenti moderni, che sono in grado di funzionare anche in mezzo al deserto, con i granelli di sabbia. Il problema, invece, è che le briciole galleggiano in aria e possono facilmente essere inalate e respirate, e quindi finire nei polmoni e causare seri problemi di infiammazione. Al pane bricioloso quindi si preferiscono le tortillas, una sorta di piadina più morbida e compatta. Quindi la soluzione del nostro quiz era pane. Invece certi alimenti collosi, come ad esempio il ketchup, si possono usare perché stanno insieme e con un minimo di attenzione si può anche evitare che galleggino qua e là. Di sale e pepe invece non se ne parla nemmeno, sono peggio delle briciole. Si possono usare ma in forma liquida. Naturalmente vale la pena sottolineare che non è che gli astronauti si mettano proprio a tavola, insomma, perché anche in questo caso il barattolo del ketchup scosso con una certa violenza, come facciamo di solito, lo sappiamo, non viene mai giù, ecco, anche in quel modo andrebbe dappertutto. Ma niente tavola, quindi. Gli astronauti utilizzano delle bustone con dentro tutto, nelle quali si infila una forchetta o un cucchiaio e li si porta rapidamente alla bocca. E nel frattempo si chiude la busta rapidamente ad ogni boccone. Molto cibo poi è disidratato. Gli astronauti aggiungono acqua e scaldano il tutto in forno. Perché questo, il forno, in orbita c'è. Ma una cosa alla quale si deve prestare molta attenzione è la temperatura del cibo. Si deve scaldare poco, perché se una gocciolina rovente di qualsiasi alimento, ma una sola, che di per sé non creerebbe problemi se fosse inalata, ecco, se invece finisse nell'occhio di qualcuno, ad esempio, questo sarebbe veramente un danno consistente. C'è poi il problema degli odori. C'è anche nelle nostre case, e questo lo sappiamo, ma è bene tenere presente che un gas è comunque qualcosa che ha un suo peso e quindi, in presenza di una gravità normale, come quella che c'è sulla Terra, in una percentuale abbastanza consistente questo si deposita. Quando ad esempio cuciniamo il cavolo, sappiamo che una dose dell'odore finisce in tutta la casa, ma certamente in cucina rimane la parte più consistente. Pensiamo ora alla stazione spaziale. Nel giro di pochi secondi si trasformerebbe in un cavolo orbitante e le finestre di sicuro non si potrebbero aprire. Questo problema è all'origine di una certa tristezza per gli astronauti russi, perché lo sappiamo, loro mangiano un sacco di cipolla e di aglio, ma nelle missioni internazionali è stato chiesto loro di soprassedere e di rinunciare a questi ingredienti. Se pensato agli inizi delle missioni spaziali, quelle un po' più numerose, quelle dello shuttle, di portare la frutta fresca. Ecco, niente da fare. Una banana se ne sta lì, è vero, compatta, chiusa nella sua buccia, e quindi non creerebbe grossi problemi di dispersione. Ma la frutta in realtà matura, troppo matura, questo in realtà libererebbe un forte odore e quindi non si comporterebbe molto diversamente dal cavolo orbitante. Maurizio Meris, buonasera. Buonasera, buonasera. Sono contento che tu sia qui, siamo in periodo di carnevale e io ho giusto un costumino da uomo ragno. Però secondo me ti manca un optional, cioè? I guanti per attaccarti sui palazzi, sui grattacieli. Che, beh, ma l'uomo ragno ce li ha. L'uomo ragno ce li ha, ma sì. Secondo me il tuo costume è ancora... No, è una roba che costa poco, però qui ho capito, mi sembra che da quello che ci stai per dire dovremmo riuscire a capire come potrebbe essere. Come potrebbe essere, perché ancora costume. Diciamo, sì, che questi guanti non esistono, no. Però sembra che stia arrivando qualcosa di interessante dalla Cornell University. E quindi oggi parliamo di un nuovo dispositivo incollante, parliamo anche un po' di animali e di come gli animali invece si incollano, perché anche questo dispositivo, come molte altre tecnologie, nascono dall'osservazione tutto sommato della natura. Vorrei introdurre il nostro ospite che poi ci aiuterà a capire questa ricerca della Cornell University e che è Antonio Mader, che è consulente del reparto ricerca e sviluppo di Vinaville ed è, mi dicono, uno dei massimi esperti di colle, incollaggi e adesivi che abbiamo nel nostro paese. Buonasera Mader! Buonasera! Buonasera! Molto gentile da parte sua! Grazie, ma pare che se lo meriti. Senta, per introdurre l'argomento io lancerei una breve scheda, la sentiamo così poi la commentiamo insieme. Arriva dalla Cornell University negli Stati Uniti e potrebbe portare a guanti che permettono di arrampicarsi sui muri come Spider-Man. La tecnologia è ispirata alle zampe di uno scarafaggio californiano che permettono all'insetto di attaccarsi con un potere adesivo pari a 100 volte il suo peso e di staccarsi istantaneamente. Si tratta di un dispositivo costituito da una piastrina su cui vengono praticati numerosi fori di dimensioni molto piccole, inferiori al millimetro. Applicando un modesto campo elettrico, come quello fornito da una pila da 9 volt, l'acqua attraversa i pori e stabilisce un contatto con la superficie su cui la piastrina è appoggiata. A questo punto la tensione superficiale dell'acqua, la stessa forza che tiene insieme una goccia d'acqua e le fa assumere forma sferica, si oppone se tentate di staccare la piastrina dal supporto a cui ha aderito. È poi sufficiente interrompere il contatto elettrico perché l'acqua torni indietro attraverso i fori, causando l'immediato distacco della piastrina. Per ora, Michael Vogel e Paul Steen, i due ricercatori della Cornell University che hanno messo a punto il dispositivo, sono riusciti a sostenere un peso di 30 grammi con una piastrina dotata di 1000 buchi larghi 300 micron, ma hanno anche verificato che la forza adesiva aumenta quanto più piccoli e numerosi sono i fori. Secondo i calcoli, una superficie di un centimetro quadrato dotata di 1 milione di fori larghi 1 micron può resistere a una trazione di 8 kg, quanto basta per realizzare guanti degni dell'uomo ragno. Ma non ci siamo molto lontani, insomma, sono cose piccole, su un guanto ci possono stare. Eh beh, certo, se un centimetro quadrato regge 8 kg, 10, 20, 30 centimetri quadrati, la superficie di una mano sono sufficienti. Mother, lei cosa ne pensa? E poi ci spieghi un po' come è possibile, soprattutto come fa la tensione superficiale ad avere un effetto incollante. Ma la tensione superficiale è un fenomeno per chi ci lavora apparentemente banale, però di effetti molto rilevanti, per esempio permette alla linfa degli alberi di salire per decine e decine di metri. Questo effetto è sfruttato da questo insetto californiano soprattutto per scopi di difesa, per questo si attacca e si stacca istantaneamente, usando in quel caso non l'acqua ma un olio. Che produce lui e ne basta un quantitativo pari a un millesimo del suo peso ogni volta che viene attaccato da formiche, viene attaccato, quindi non riescono a staccarlo. Quello che c'è di interessante nella... Cioè questo insetto attacca a qualcosa perché le formiche cercano di portarlo via, quindi lui si aggrappa a quello che trova per evitare di essere trascinato via dalle formiche. Se lo si prende di sorpresa lui si stacca, ma basta toccarlo con la punta di un pennello e lui si aggrappa istantaneamente. Temo che se lo mangino lì, però l'effetto collante... No, non se lo mangiano le formiche perché si stancano e vanno via. Ci sono altri insetti che li iniettano del veleno, a quel punto si paralizza e se lo mangiano. Okay. Senta, lei prima ha fatto l'esempio degli alberi. La capillarità è quel fenomeno per cui l'acqua riesce ad arrampicarsi dentro dei pisicini molto stretti. Un altro aspetto, quando noi facciamo dei castelli di sabbia, sfruttiamo la capillarità. Tra i granelli di sabbia c'è questa sottilissima membrana d'acqua che se noi ne mettiamo troppo non funziona, l'ambiente non deve essere saturo di acqua. Quando c'è questo quantitativo tra un granello e l'altro che permette di avere questa membranina sui bordi dei granelli, i granelli vengono tenuti insieme. Lei ha fatto un esempio giusto, perché tutti noi sappiamo che se facendo il castello la sabbia è troppo piena d'acqua, il castello non tiene, certo, crolla su se stesso. Sì, in quel caso quando si secca resta incollato per un altro fenomeno, l'acqua discioglie quella piccola quantità di sali che poi si dispone all'interfaccia tra granello e granello e questa piccola quantità di sali cristallizzata poi per altri fenomeni tiene ancora insieme i granelli. Un altro esempio di come agisce la tensione superficiale, lo possiamo sperimentare molto facilmente, sarà successo a tutti quando capita di appoggiare per esempio due lastre di vetro bagnate, diventa molto difficile separarle. Esatto, ed è quello che hanno fatto questi due inventori, cioè la genialità dell'invenzione in effetti non risiede tanto nel meccanismo ma nel dispositivo che hanno realizzato, perché a parte le difficoltà costruttive che però possono essere superate con la tecnologia che si sta sviluppando, certo, tipo fotolitografia, però utilizzano dei materiali abbastanza semplici, cioè hanno usato delle lastre di vetro. Come materiale adesivo si usa acqua distillata. La quantità di energia necessaria è molto bassa, perché una volta che si stabilisce il contatto si è in una situazione di equilibrio. È un'invenzione geniale. Poi naturalmente per i suoi guanti questi dovranno essere flessibili, però anche questa non è una cosa insuperabile. Il prototipo funziona. Insomma, abbiamo qualche speranza di vedere. Ci mancano le ragnatele, su quelle bisognerà ancora lavorare. Ma guardi, quello è un altro discorso. Vedi, non puoi dire niente che lui ha subito. Ci sono moltissimi studi e stanno cercando di copiarle con materiali sintetici. Anche quelle sono molto interessanti, sia per come si aggrappano, sia per come resistono meccanicamente. Sono molto più resistenti dell'acciaio a parità di peso, ma molto, molto più resistenti e tenaci. Certo, questo è noto. Ecco, dagli animali, dicevamo, dalla natura in generale, si impara moltissimo da sempre. Diciamo che in questo settore dei collanti in particolare mi sembra ci siano molti esempi di... Sì, a parte i gechi, che anche loro da quel punto di vista sono molto intelligenti, di quelli ne abbiamo parlato, sono conosciuti, per esempio i mitili sott'acqua utilizzano delle colle bicomponenti molto intelligenti. A parte il meccanismo, se uno guarda come funziona tecnologicamente, il mitilo, vabbè, si è sviluppato in milioni di anni, però è molto avanzato. E poi parliamo della cozza, letteralmente, quella che facciamo, quelli che si mangiano, esatto. Pulisce la superficie, si aggrappa con una piccola ventosa, inietta un collante a due componenti, cioè il prepolimero e un catalizzatore che lo fa indurire. La struttura della colla è tale per cui leggermente porosa, per cui sotto sollecitazione si muove con un'elevata resistenza a fatica senza snervarsi. Inoltre nella molecola ci sono dei particolari gruppi che permettono dei meccanismi di adesione su molti materiali diversi e di diversa natura, da un legame di tipo ionico, forze di Van der Waals dispersive, legami a idrogeno, un tecnologo difficilmente riuscirebbe a fare, a mettere insieme un mix prima così del mitile. Infatti in laboratori particolarmente inglesi li hanno studiati a fondo e credo che le applicazioni pratiche esistano già in colle per sutura usate durante le operazioni. Qui basta che arrivi un polipo che gli fa il marketing e queste qui ce le troviamo sul mercato con le loro colle. Colle di cozza. No, grazie Mandere. Buonasera. Ciao Maurizio. Ciao Federico. E con questa promessa di incollarvi nuovamente in una delle prossime puntate, io vi saluto, buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui, sempre con Möbius.